In ceppa. Ah, la prossima è una canzone che proporremo nel futuro disco, si chiama Forza Musica. È vero? Notte sboccia dentro noi come un fiore a primavera. Questo canto, questa voce che viene da questa vecchia terra, dove valorosi guerrieri hanno lottato per difenderla, seguendo questa voce, pagando con la morte. Dall'impero romano al sacro romano impero, dalle crociate alla repubblica sociale. Quanta gente d'Europa ha seguito questo cammino fatto gioie e tradimenti, fino a pensare, ma chi me lo fa fare, meglio sottostare piuttosto che lottare. Dimmi allora a cosa sono serviti i gloriosi segni e sanguinose guerre. Sono bandiere che non potrai di chi ha un vero ideale. Allora ragazzo vai, non ti devi fermare, devi lottare per riconquistare. Segui questa voce, è la nostra voce, è l'Europa dei popoli, è l'Europa dei nostri padri. Catene di questo sistema e ricostruire un nuovo domani. Ricordati uomo che vale la pena rischiare. Se credi veramente, se hai un'idea, la battaglia è disperata, non devi mollare. Se non c'è più niente da fare, non ti devi rassegnare. Esci da questo gregge, da un popolo infame, nato per protestare, morto al momento di lottare. Allora ragazzo vai, non ti devi fermare, devi lottare per riconquistare. Segui questa voce, è la nostra voce, è l'Europa dei popoli, è l'Europa dei nostri padri. Spezza le catene di questo sistema. Non potrà mai entrare.